al sorgente del desorio ho perso le emozioni. C'ero io che scrivevo canzoni dove le categorie vogliono il loro nome, che anzi disperava. Mentre Einstein non capiva, al sorgente del desorio al fianco di una palma passeggiava la storia bianca d'arancione. Una luna capovolta ci scioglieva. C'era Dio che si bucava in mezzo al sangue e alla disperazione. Io dedicavo all'inventore, alle sorgenze del desiderio, tra pensiero e sensazione. Avevo trovato la chiave dell'evoluzione. Fanculo Dio, io sono un capaneo.